la sto dicendo lei. Come? Ha la casa pronta a Nuoro. Va bene, adesso chiamo l'ambulanza. Vi faccio sapere. Diteci. Va bene, le prendono tutte e due. Ok? Si sta okay. Siamo pronti, raga? Come ci organizziamo? Giulia, ma te le adatte? Sì, sono nel bancone del bar. Allora, mi ha chiamato la signora Serra Vittoria che le avete lasciato il letto troppo alto. Di regolarlo, grazie. 3 Orazze e 3 Monzo. Serra Vittoria, letto 19. Mi mandate il 101? Luca, mandami il 101 in pizzeria. Mi controllate i litri al minuto di ossigeno di Satta? Mi sentite? Due litri Satta. Ok, grazie. Lu, mi ha risposto? Sì, preparazione. 43, uno è cotoletta, mi hanno dato due calamari fritti. Pintore non vuole l'ossigeno, Monello. Allora, prendigli una saturazione in aria ambiente. Se non sei maggiore di 94, fregatene. 89. No, mettiglielo allora, 2 litri se li merita. Giuliana, loro sono al tavolo 7. All'ambulanza? Avete parlato? Sì, voglio sapere che fine ha fatto l'ambulanza. Dice che si stanno vestendo e stanno arrivando. Luciano ha sollecitato già 2 o 3 volte, quindi dovrebbero essere vicini. E poi la moglie saluta Porqueddu se passate da lì. Sì, tanto non abbiamo niente da fare, stiamo aspettando. Il tour è pronto, vedi tu. Luciano, inizia a scrivere consegne. Le sta già scrivendo. 2 margherite e una porzione di patate. Da bene, volete qualcosa? 2,050, grazie. C'è una Sprite in omaggio in caso. Ma ci sto andando. Sare, mi confermi, Dore al 52. Ma la chiusura del 41 è uscita. Allora, Cano al volo le gocce per dormire e il vicino Manca si sta agitando. Ditemi! Cano al volo le gocce per dormire e il vicino Manca, il 10 si sta agitando. 10 gocce di Rexona tutti e 2. Ragazzi, respirate piano. Adesso non mi ricordo se è 201 o su 209. Lu, 201. Nastia, bloccami il 63 davanti alla sala giochi. 1-2. Ah, lo volevi fuori, so? Disagio 2. A 50 volte siamo andati 3 volte, adesso si aspetta. Va bene, novità? Siamo qui. Ascolta, Valeria o Stefania? Valeria. Ma le paziente, possono aspettare loro lì all'ingresso dell'ascensore, capito? Lì, nella porta. Come arrivano, l'ambulanza apre e se ne vanno. Con tutte le cose, soprattutto le cartelle, capito? E allora perché siamo rimasti qui un'ora? Mi hanno detto che arrivavano subito, ma non sono arrivati. Io non è che sono... Ok? Ormai stiamo ballando, balliamo. Come? Ormai aspettiamo, pure entra un medico e ci dà il cambio, perché noi ce ne dobbiamo andare. Ma fate come vi sto dicendo io. Se mettere il sangue. No, che poi ci denunciano per le correnti d'aria. Documenti però. Poi ci denunciano per le correnti d'aria. No, abbiamo visto. Ci siamo abituati, dai. Vabbè, perché? Dove sono? Io... ho telefonato 4 volte, ogni volta dice sono in corridoio, sono in corridoio, sono sotto l'ascensore, ma che cazzo, quelli no. Ascolta, poi c'è, accertatevi che ci siano i documenti di Abdul sulla sinistra. Una busta gialla. Ma lui a che ora va via, che è pronto dalle 3? Alle 9. Va via sia lui e poi più tardi anche il signor Satta, quindi tutta la notte. Guarda la cartella, se fa, se c'è di Abdul sulla sera è lì all'ingresso della porta vostra. Ecco l'ambulanza. È arrivata l'ambulanza, dai. Noi stiamo uscendo, adios. Luca, al 78 c'è da prendere olio agliaccio, anche se l'ho segnato come aglio. Grazie per la permoletta. Davanti che la fuori qua. Luca, continuo come sei lì, Pronto. La prima presa, però. Sì, qualcuno. Quindi non ce la fuori. Ma il 4 sono diventati in 4? Sì, esatto. No, si aspetta le valere un pochettino il volume. Storia, va bene? Ah, sta troppo. Adesso? Sta troppo. No. Basta così, va bene così. Ciao raga, io fuggo e non torno più. Magari più del 28. Storia, ricordati il conto del 29. Lo dico. È chiuso. Puoi togliere il microfono a Giuliana? Sì, già poi un 2. Ok, va bene Giuliana. Era un tavolo grande, va bene? Sì, va bene. Risposta 44 volte da 5. Giuliana, ci sei? Mi hai sentita? Allora, via Letizia del 3. Via anche il 102. Quindi via 102 e 103, ok? Okay. Nastia, mi servirebbe un 4 fuori. Euro. Storia, il tavolo 60 a bagaccio. Non ho capito, tavolo? 60. Tavolo 60. Massimo, poi qua. Tavolo 20, signori, ok? Massi. Si ti avvicina qua in cassa? Massimo, poi al tavolo 12 stai facendo una comanda? Loro, Giulia, dai una mano qua al bar. Giulia, poi mi servirebbe il 23 per 2, perché stanno arrivando la prenotazione. Sono a sinistra, il fusto. 24. Sto cambiando il fusto, sono 4 spine. Il caffè del 55 sono usciti? Pronto? Cosa vuoi? Il caffè del 55, sono usciti? 75. 55. Sì. E allora mettete qui. Storia, fanculo. Ehi, aspetta, un 60 secondi. E metto io le salse fuori? Giulia, mi servirebbe il 3 da 6. Oltre. Luca, fammi marciare il 101, con 3 pizze d'asporto. Figura di me. No, vabbè, con la mascherina già non mi sento. E tu avvisami no. Sei sempre ancora lui. Oh, basta, state parlando un bel. Oh, sei tassino. Fate lui, tappati. Luca, mi fai fare per signora Gabriella una 9 cereali mister? 9 cereali? Una mister ai 9 cereali, senza grana. Mi senti? Sì, così mi senti adesso. Mi hai sentito? Per farlo? No, allora no, tu mi senti bene, io non sento niente. Pronto? Sì, avevo il volume basso. Questi due negri dal monte, al 21 Lissi. Cosa vuoi dal monte? Pane, piatto. 6-2. Luca, puoi entrare in cucina, per favore? Sì? Ci sto vicino al bar, raga. Ma con la bibita ci siamo fatti. Silvia, ti puoi avvicinare qua? Chi è Salvatore? Ma tu cosa vuoi? Ma sì, hai del pepe in primavera? Cosa? Allora, chi è che mi sparecchia al 12? Al 12 hanno appena portato una birra, Massi. Dove sei? Raga, ma lo sbaglio è fatto il 12? 12 sbarattato? Sì, l'ha sbagliato Massi adesso. Perfetto, la capotavola ha una sorte, è una sorpresa. Sore, un po' gliela puoi portare? Sparecchiato, sparecchiato. Ti prendi piattini, coltello, forchetta. E io. Banda le tante. Ma c'è una Kinder rota, che ce ne facciamo fare? Tore, ti ricordi cosa ti ho detto del risultato? Cioè, piace. Tore, chi è il festeggiato del 12? Capo a tavola, la signora Rita con la maglietta scollata. Però le tette piccole. Tore, stampa il 24, 20. Tore, il 20, Tore. Fatto. Il posto finita? Comunque ti ho detto 4-3 per il Sassuolo. Comunque non ci interessa. Luca, quei tavoli bisogna entrarli dentro. Prendi dall'84. Nastia, non si capisce un cavolo di quello che dici. Ho capito, 84. Cosa hai detto? Sto parlando di pizza. Bibite mancano. Isla, bibite mancano. Mezza cassa di mano. 10 con 4 sprite, mezza di foresti, 2 da zap, 1 naturale.